Ci pensi alle cose non dette, le cose che spezzano il fiato. Il campo di battaglia è il palato, è una guerra civile, un colpo di stato. Soffochiamo la rivolta ed ingoiamo. Lo stomaco è una prigione di parole dove noi accumuliamo lividi, dosi di rimpianti liquidi, frasi come spazzatura che galleggia in mare, sommersi dai detriti di sentimenti poco nitidi. E non ce la fai, è già tardi ormai, tra le macerie ti arrenderai. La guerra continua, non sembra finire. Siamo vittime delle cose da dire. E c'è un padre che spiega al figlio com'è che si smette di amare, che quest'oggi alle 4 all'asilo andrà a prenderlo sua madre. C'è una donna in sala d'aspetto che non fa altro che pregare, che non c'è un addio peggiore di quello dentro un ospedale. C'è un anziano che vaga per casa e cui non vengono più le parole, che prova a parlare ai nipoti ma non ricorda nemmeno il suo nome. C'è una coppia che non si parla, è il giorno di scambiarsi il cane, che è felice e non comprende tutto questo traslocare. E non ce la fai, è già